ho capito. E ora che lei fa uscire il figlio, ho capito. E non te va bene, Marco. Tappi il numero io, se l'è perso, c'è Vincenzo e non c'è problema. La signora Clara, io ho capito. Pezzo di merda, froscio, drogato che non sia altro. Eh? Cosa credi? Che non credo che vai così per pippa a rompere i coglioni. Domani, il 29-7-70, te lo faccio squillare notte e giorno, ne sveglio con la grande bagassone mammadoia. Che se lo rompi i coglioni! Poi vabbè, che domani ti faccio squillare il telefono, capito? Domani rompe coglione a casa tua, capito? Che ti rompe coglione a te, a quella grande bagassa ma tua, hai capito? Portate presto, domani non lo attaccare perché domani spiombo di telefonata a quella bagassa ma tua, hai capito? Brutto coglione! Brutto coglione! Mattina piombo di telefonata a quella bagassa di tua madre, hai capito? Domani, se non ti toglie il barchino, io rompo i coglioni! Me rompo i coglioni! Tu ballati con quella bagassa di tua madre! Brutto coglione, figlio di merda, drogato! Dalla bagassa ma tua, vai, coglione! Tanto una mattina ti piombo di telefonate, capito? Coglioni! Perché domani 24-3-3-6-4 ti squilla notte e giorno, perché i drogati se ne vanno in affanculo, capito? Drogato, vaffanculo! Ho fatto la denuncia, che sia te che sia Mario Auto, adesso giocati come cazzo ti pare, coglione! Scriveti che rompimi il coglione a barchino, domani rompi il coglione a tua madre, coglione! Lo fai che domani il 24-3-3-6-4 ti squilla notte e giorno. Vedrai come crepa tua madre, che non è baracchino, eh? Brutto coglione! Brutto coglione! Coglione! Tu solo fa quella grande bagasse mamma tua! Quella grande bagasse mamma tua! Hai capito che mi hai rotto il coglione? Mi hai rotto il coglione! Che domani mattina te lo fa parlare, vedrai, vabbè. Adesso rimettiti da solo. Froscio! Falli con la voce tua, hai paura che ti riconosco, eh? Pezzo di merda, froscio. Quella bagassone di tua madre. Sai che domani ti faccio una bella vita.